In diretta su CRM Happy Radio, va ora in onda Slalom. Presenta Francesco Puglisi. Miei cari amici vicini e lontani, ovunque voi vi troviate, buongiorno. Oggi è il 22 luglio 2013, sono le 11.08, inizia Slalom, una trasmissione musicale non solo, che vi terrà compagnia sino alle ore 13 in diretta su CRM e in diretta da Cefalù, dallo studio di Cefalù. 0921 92 32 92 e 335 56 37 251 sono i nostri numeri telefonici a vostra completa disposizione per quanto riguarda le vostre richieste musicali, ma anche se volete fare delle dediche o dei saluti. Ricordiamo inoltre una cosa importantissima: il nostro sito internet, che è www.crmhappyradio.it, e quindi da qualsiasi parte del mondo voi vi troviate è facilmente ascoltabile la radio grazie soprattutto al sito internet. Facebook, siamo all'interno di questo bel social network con il nostro bellissimo spazio, siamo già 5200 amici, e quindi se voi, anche voi, volete far parte della nostra community e quindi far parte della grande famiglia di CRM, potete chiedere l'amicizia e noi automaticamente vi manderemo la nostra amicizia a quel paese. Allora, buon lunedì, buona settimana, e partiamo subito con la musica. Questa è una prima richiesta data dal programma precedente condotto in studio da Patrizia Correa, come dico sempre io, la Patrizia che va e il Puglisi che arriva. Daft Punk con Get Lucky. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky. Lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all

se alla fine è già complicata così com'è. Che quando sorridi è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile se alla fine è già complicata così com'è. Neffa con questa bella canzone, bella tipicamente estiva, intitolata Quando sorridi. Poc'anzi si parlava di questo fine settimana, e questo fine settimana sono stato a Catania, non so se vi è capitato di andare all'IKEA e andare a chiedere qualcosa al bar, che è un posto veramente grandissimo, incantevole, simpatico per alcuni aspetti, perché lì dentro ad esempio non prende il telefono, muto totale, quindi hai l'opportunità di imboscarti, perché lì dentro nessuno riuscirà mai a rintracciarti. Ma la cosa più carina è stata che tu vai a prendere un tramezzino e ti danno il maialino, l'acqua e la farina, ti dice se lo prepari da sé. Tutto il giorno, a che mi serve? Pensando sempre solo a te, ma tu coi tuoi discorsi strani, cantare le canzoni oggi non basta più. E non c'è una soluzione se non quella di impicciolirmi a dismisura fino al di rimanere là a disposizione, cambiando se tu cambi posizione, o essere l'involucro di ogni funambolico pensiero che ti viene, quando le giornate sono piene dei tuoi maledettissimi impegni. Maledettissimi impegni, la canzone che abbiamo sentito questa mattina alle 11.28 all'interno di Slalom, trasmissione che vi terrà compagnia sino alle ore 13 con Francesco Puglisi, firmata questa canzone Max Gazzè. Oggi è Santa Maria Maddalena, quindi facciamo gli auguri a tutti coloro che si chiamano Maria Maddalena. Continuiamo ancora con la musica e adesso un passo indietro, parlando di una canzone di qualche tempo fa, quindi un flashback. Slalom Flashback. città. Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché. Avrà fatto qualche sgarro a qualche industria di caffè. Questa mattina insieme a noi con questa bella canzone intitolata Hanno ucciso l'uomo ragno, dedicata a Rosario Samuele che ce l'ha richiesta. Adesso consigli commerciali e poi ripartiamo con la musica firmata CRM Happy Radio, la radio che da qualsiasi parte del mondo voi potete ascoltare. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Slalom. Flashback. Come on, you get it, get in there. Get in time. Tonight. I come a money, come on, you give it girl, give it time. Erano il 1979 quando gli Easton Funk cantavano questa canzone rispolveratissima più che mai questa mattina alle 11.41 all'interno di Slalom, trasmissione che vi terrà compagnia sino alle ore 13. Slalom, viaggiando tra curiosità, idee e buona musica. Rimaniamo sempre negli anni 70-80, questo è un vecchio successo dei Lipsy King Incorporation con Funky Town. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.crmpradio.it, all'interno del quale potete, come state facendo, richiedere le canzoni che più desiderate, oppure potete sfruttare tranquillamente i nostri numeri telefonici che sono lo 0921 92 32 92 o il 335 56 37 251. Lipsy Incorporation. poc'anzi parlavo con voi tutti dicendo l'esperienza avuta ieri alla Ikea di Catania, dove veramente a questo luogo immenso dove è facilmente perdersi, una cosa molto, molto semplice, e soprattutto non si può riuscire a comunicare se sei in compagnia con gli altri tramite il telefonino, perché non c'è copertura, quindi non c'è campo all'interno dell'Ikea. Ma la cosa più divertente, però è uno scherzo, mi è venuta così perché essendo che lì compri tutto lo devi poi montare a casa, che è ancora più complicato farlo, e è quello che noi abbiamo fatto, cioè siamo andati a mangiare un boccone, quindi quando abbiamo chiesto un tramezzino ci hanno portato praticamente la farina, l'acqua e il maialino, dicendo ve lo fate da voi, come a voler testimoniare il fatto che siamo all'Ikea e che tutto va costruito, anche una piccola mensolina va costruita. Scherziamo naturalmente. 335 56 37 251 0921 92 32 92 Lipsy Incorporation, canzone del 1985 dei Funky Town, intitolata Funky Town. Ritorniamo a casa nostra con Max Pezzali con la canzone intitolata L'universo tranne noi. Ora parliamo di qualcosa di interessante. Ti ho incontrata ma tu non mi hai visto, per in macchina è stato un attimo, ma il mio cuore si è come bloccato, o era fermo prima e ha ripreso a battere. Tante volte io l'ho immaginato, rivedere te che effetto mi farà, però adesso che è capitato non importa più se sia stata colpa tua o mia. Sognano quell'amore che i cantanti cantano, tanto forte, potente, immenso che sembra esagerato ed impossibile, con il petto che sembra esplodere, che non serve altro in più per vivere, che potrebbe scomparire l'universo. Una vita accanto a te, Pezzali questa mattina con questa bella canzone intitolata L'universo tranne noi. Lo sapete che per 3 anni di seguito il premiato del rutto più lungo è stato detenuto da un detenuto del carcere San Vittore. Slalom. Flashback. California Dreaming è una canzone dei Mamas and Papas pubblicata nell'album If You Can Believe Your Eyes in Ears del 1966. La canzone venne scritta, pensate un po', nel 1963 durante la permanenza di John e Michelle Phillips, i principali componenti del gruppo a New York. La canzone è stata oggetto di molte cover a parte di band sia di cantanti sia italiani che anche stranieri, tra cui Dick Dick, Joseph Liftano, Beach Boys, Jan Arden, ed inoltre gli America l'hanno eseguita dal vivo in diversi concerti. Poi c'è da dire che comunque questa canzone è stata inserita all'interno di alcuni film, tra cui anche Forrest Gump e Hong Kong Express. Slalom, su e giù tra notizie curiose, idee e tanta musica. Continuiamo con la musica, salutiamo Maya che ci ha richiesto questa canzone firmata Cesare Cremonini. La canzone si intitola Il Labio ed è dedicata a tutti gli innamorati in ascolto. Vi ricordo inoltre i nostri numeri telefonici che sono il 335 56 37 251 e lo 0921 92 32 92. A vostra completa disposizione come state facendo per richiedere canzoni e fare i vostri saluti. Un giorno non so dirti quando ci rincontreremo io e te. Per la strada, coi dischi, la spesa, io ancora ubriaco al caffè. Occhi negli occhi, diremo qualcosa sul tempo che va. Senza il coraggio di chiederci quanto è costata la felicità. Non so più chi sei.

12 e 11 minuti primi, questa è Mobbin con questa bella canzone del 2002 intitolata In My Heart. Una curiosità, questa canzone è una delle più ascoltate, ma soprattutto una delle più lette per quanto riguarda il testo, quindi tradotto il testo in italiano, quindi una canzone piuttosto profonda perché parla di amore. Continuo ancora, prima consigli commerciali e poi con la musica targata e firmata CRM 101.4. Slalom Flashback. Ha preso proprio in fragranza questo pezzo, anche perché stavo leggendo una cosa interessante, che è una curiosità: se si ascolta la canzone al contrario sono udibili delle note di pianoforte ben distinte che corrispondono ai suoni distorti che si sentono spesso per tutta la durata del brano originale. Ma un'altra cosa curiosa invece è dettata da una frase che dal ritornello che può sembrare di udire la frase "It's fun to smoke marijuana", significa fumare la marijuana è divertente. Le varie versioni live registrate però sembrano dare lo stesso messaggio, ed essendo il backstage mixing una tecnica attuabile solo in studio, questo può trattarsi solo di un fenomeno di pareidolia acustica, quindi non sappiamo se realmente è così oppure no. Nel film Iron Man 2, la canzone che abbiamo sentito dei Queen del 2010 è il sottofondo dello scontro tra Iron Man e War Machine. È una bella canzone, l'abbiamo voluta riascoltare, ed è una delle canzoni più belle dei Queen secondo il mio punto di vista. Musica italiana. Seguo l'immaginazione, la strada dei passi passati da qui. Sento una dolce evasione negli occhi che mi hanno guardato così. Trova una buona ragione, qualcosa da fare per dirmi di no. Fuori c'è un sogno che aspetta soltanto i tuoi baci per vivere un po'. Baci per vivere un po' più in alto. Che lo voglio o no, c'è un'emozione che aspetta soltanto i tuoi baci per crescere un po', baci per cantare un po' più in alto di questo cielo. La comparsa due anni fa al penultimo festival della canzone italiana di Sanremo, e Chiara Chiavello ci ha fatto sentire questa splendida canzone che a me è piaciuta, e poi è scomparsa. Adesso Emma. Il sorriso non lo perder mai, qualunque cosa ti accada, qualcosa ti inventerai, non la vedi ma la tua strada, e quando ti accorgerai ti sembrerà un'altra storia, è quella che lascerai. E non si toglie più l'odore della paura, a meno che tu non ricordi com'era. Può stupirci ancora tante volte.

Aphrodite Child sono stati un gruppo musicale rock greco attivo fino agli anni 60. Il gruppo si formò in Grecia e comprendeva quattro personaggi proprio di quella nazione. Per tentare la fortuna nel 1968 decisero di trasferirsi a Londra, ma il quarto elemento dovette rimanere in patria per assolvere gli obblighi legali. L'aereo faceva scala a Parigi e i tre vennero bloccati nella capitale francese per delle irregolarità nel visto dei loro passaporti. Il loro tipo di musica era costituito da una miscela di rock atmosferiche folcloristiche greco-mediterranee. I tre ottennero un'audizione presso la casa discografica Mercury Records e furono notati dal produttore francese Pierre Sberlo, che propose loro di adattare in chiave pop il celebre canone in re maggiore dell'abate John Patchball, il compositore tedesco del 600. Sulla scia del successo ottenuto dai Protocol Arm con una maggior analogo operazione musicale, Rain and Tears, questo è il titolo che fu dato e che questa mattina abbiamo voluto ascoltare, divenne subito praticamente un grande successo e venne pubblicato proprio nei giorni del maggio francese e trasmesso incessantemente nel radio, diventò a suo malgrado una colonna sonora degli avvenimenti di quei giorni, per poi diventare nel corso dei mesi successivi uno strepitoso successo mondiale di vendite. Di tutto, un po' di tutto, un po' di più, con Francesco Puglisi. Slalom. Flashback. Love is only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace, a doubt in my mind. I've been alone. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace, a doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I saw her face, now I'm a believer. Not a trace, a doubt in my mind. Not in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face, now I'm a believer. I'm Believer, la canzone dei Monkees che questa mattina abbiamo riascoltato, una canzone composta da Neil Diamond e registrata proprio dal gruppo The Monkees nel 1966. Il singolo è stato prodotto da Jeff Berry ed è entrato al primo posto nella Billboard Hot 100 il 31 dicembre del 1966 e pensate, vi è rimasto per 7 settimane, diventando così il singolo più venduto del 1967. When I hear the ocean calling and I feel my spirit falling, I remember old Sorrento, where I fell in love with you.

1985 per Gigi Chic, questa canzone intitolata Good Times. 12:57, questa è Slalom, trasmissione che vi terrà compagnia per altri minutini, poi ci lasceremo, ci augureremo il buon fine settimana, tutte le cose di questa genere, e poi parleremo anche di lunedì. Ma vi volevo dire anche una cosa carinissima, che è quella che un costruttore di nave, colui che ha costruito la nave, si è accorto dopo 6 anni che la nave aveva montato anziché il timone praticamente le coccole. Di questa canzone Francesco Puglisi si congeda da voi, vi ringrazio della cortesa attenzione e vi rinnovo l'appuntamento a lunedì sempre su questa radio, su CRM Happy Radio, sempre dalle 11 alle 13 in diretta, assolutamente più che mai. Vi auguro un buon fine settimana, vi auguro tutto il bene di questo mondo, ma soprattutto vi auguro buona vita e buona continuazione dei programmi firmati CRM.